Donna Aurelia era intenta a realizzare piccoli mazzolini di fiori pronti poi per essere venduti agli eventuali visitatori. Usava l'acquaio di pietra posto fuori dal nostro appartamento che funzionava da vetrina floreale. Aurelia aveva perso la sua abituale ironia nell'affrontare i riti quotidiani di quel giardino. In silenzio presi ad aiutarla mentre uscì allo scoperto Tobia, la tartaruga. Quel vasto giardino era popolato anche da molti altri animali. Oltre ai polli nascosti, vi era ogni sorta di animale domestico e non, lucertole, topi, serpi, sporadicamente cani randagi in cerca di asilo o gatti domestici che venivano temporaneamente adottati, e ovviamente Tobia. Famiglie intere di animali contrapposti alla mia vivevano nel mio giardino, e ad ogni entrata di visitatore essi, come d'incanto, scomparivano. Anche Remo era più taciturno del solito. Gli unici momenti in cui il suo volto si rasserenava era con i film di Totò, e la sera precedente avevamo visto Totò cerca casa. Alla famiglia di Totò veniva offerto di abitare in una casa all'interno di un cimitero e ovviamente l'incarico di custode e becchino. Ma loro, dopo un vano tentativo, rifiutavano scappando a gambe levate. Non ci volevamo credere, ma sembrava di vedere la nostra situazione abitativa in quel film, e tutti noi ne eravamo sorpresi e vagamente felici e soddisfatti. Noi eravamo riusciti dove il mito di mio padre aveva fallito. Sapevamo che Vittorione era fuggito dall'istituto in cui soggiornava da quasi 2 settimane, ma nessuno riusciva ad avere altre notizie su dove si fosse rifugiato. Remo, prima di chiudere il cancello ogni fine giornata, faceva un giro di perlustrazione del giardino e infine rientrava a casa speranzoso di non trovare il solito caos e soprattutto la solita cena cucinata in modo approssimativo da Bianca. Quella sera tardava a rientrare, così mia madre mi chiese di chiudere il cancello e alle mie sorelle di cercare nostro padre. Scesi i 3 scalini che innalzavano la nostra abitazione dal giardino e immediatamente scorsi, nel crepuscolo della sera, la sagoma prodotta dal controluce delle 1000 piccole luci votive di mio padre inginocchiato nel centro del viale. Aveva trovato Vittorione. Vittorione era con la testa dentro una busta di plastica, chiusa al collo con uno degli innumerevoli rosari di legno che adornavano la sua bicicletta. Il suo corpo giaceva accanto alla propria bicicletta, davanti alla porticina dell'ossario. Quel luogo in cui ero nato, in cui avevo trascorso l'infanzia e una parte della mia adolescenza, aveva reso straordinaria anche la mia personale percezione della morte. Una morte addomesticata, amica, con cui dialogare quotidianamente nella confusione della vita. Ma l'atto finale di Vittorione aveva banalizzato tutto ciò. La morte mi aveva tolto una persona con cui mi confrontavo, facendomene sentire la mancanza. Semplicemente non c'era più, un'esistenza scomparsa. Tutti noi eravamo profondamente sconvolti da quel gesto, ma molti in paese erano invece come sollevati. Lo dimostrò la quantità di presenti al funerale di Vittorione. Erano presenti, oltre alla mia famiglia, Enzino e Marco, 2 vecchi compagni di guerra, e in modo discreto e silenzioso Edda, con un velo nero sulla testa fino a coprire l'intero volto e 2 guanti neri lunghi fino al gomito. Subito pensai che servissero a mascherare la fantomatica mano amputata e mi chiese che fine avesse fatto il topo con il quale aveva benedetto mio fratello Andrea e Anna. Le mie care sorelline, dal canto loro, non persero l'occasione per dimostrargli il loro caldo affetto parentale, ricordandomi che i guanti neri di Edda potessero essere quelli che vagavano nel cimitero, tanto esaltati dalla nonna Aurelia. Io per l'occasione feci da chirichetto ad un Spartaco, che ufficiò il rito funebre in maniera sbrigativa e con palese imbarazzo a causa dell'atto sacrilego che Vittorione aveva commesso. Quel rito di cordoglio pubblico terminò con l'inserimento della cassa in un modesto appartamento riservato a Vittorione, in un'altrettanta modesta parte del condominio. Mia madre invitò Marco in casa per bere un bicchierino e lui accettò di buon grado. Graziella trovò delle scuse per non essere presente, lasciando il campo libero a Gabriella, che ben contenta fece gli onori di casa. Marco ci informò che Vittorione in realtà non era fuggito dall'istituto, bensì dimesso, e subito dopo era stato ospite della casa colonica di Edda. Il giorno prima che mio padre lo trovasse, era arrivato con la sua bicicletta in piazza del paese e tra lo stupore di tutti aveva cominciato a lanciare in aria banconote di grosso taglio, sfidando i ragazzi presenti a raccoglierle. Braindendo in un vecchio bastone in mano, sbraitava contro loro con la sua voce roca e inconfondibile: «Vediamo chi ha coraggio di raccattarli, vediamo quanto siete attaccati ai soldi!» Quella sera avrei dovuto aggiungere il nome di Vittorione nel mio quaderno, magari con una frase di circostanza. Ma uscii di casa, gettai il quadernetto nel viale del giardino e lo bruciai. La piccola fiamma che produsse si confuse con altre mille del giardino, come tanti fuochi fatui che danzavano in omaggio a Vittorione.